36. La notizia giunse di corsa. I ribelli erano vicini, molto vicini, e si preparavano ad attaccare. Non era l'esercito continentale a minacciare Montreal. Si trattava di irregolari e li comandava Ethan Allen. Occorreva uscire subito, con tutte le forze disponibili, ingaggiare battaglia prima che il conquistatore di Ticonderoga fosse in vista della città. Gli uomini del dipartimento, Joseph, Philippe, Peter, Guy Johnson, i Butler, si unirono all'improvvisata schiera che avrebbe sbarrato il passo al Golia delle Verdi Montagne, appena una quarantina di soldati regolari, sciolti in una moltitudine di miliziani, giacche e cappelli di ogni foggia e colore. Volontari civili in tenuta da caccia, ranger, guerrieri delle nazioni del Canada, soprattutto Caughnawaga. Peter fissò il guerriero accanto a sé. Le Grand Diable, pensò, qualunque cosa accada, lo seguirò. Pensò all'uomo che stavano per affrontare. Dicevano che la sua statura fosse gigantesca. Peter ricordò le storie intorno al fuoco, il volto di Walter Butler oltre le fiamme che guizzavano. Seguire le Grand Diable. Peter scoprì che dietro la paura c'era dell'altro. Eccitazione e un sentimento nuovo, solido, inaspettato. Determinazione. Conosceva già la battaglia, il tuono dei cannoni nelle orecchie, la terra che tremava sotto i piedi. Aveva veduto la morte. L'unico modo di evitarla era vincere. I due schieramenti presero contatto verso le 2 del pomeriggio. Scariche di fucileria scambiate alla distanza, da un capo all'altro di un'ampia radura. Eppure il nemico cambiava forma, perdeva già compattezza. Si sfilacciava in fughe scomposte. Di colpo la Croix fece un cenno con la mano. Gli uomini si mossero. Joseph, la Croix e Peter avanzarono lenti, tenendo bassa la testa, con Walter Butler e un gruppetto di Caughnawaga su un arco di una 50 yard. Si tenevano a pelo dei cespugli e scivolavano sul fianco dello schieramento nemico. I proiettili ronzavano sopra di loro, insetti pesanti e sgraziati. Gli uomini presero posizione dietro grandi tronchi di pino sul margine della radura. I ribelli non si erano accorti di nulla. Peter vide un uomo alto e corpulento che strillava ordini nel crepitare dei fucili. Percorreva a grandi falcate la fila dei ribelli, inginocchiati dietro i tronchi e nelle buche del terreno. L'andatura oscillante, nervosa, era quella di un animale in trappola. Ruggiva comandi con rabbia, artigliava l'aria con le mani, indicava dove sparare. Peter capì. Golia era di fronte a lui. Il ragazzo avanzò di un passo. La paura stringeva le viscere. Forzò il corpo a muoversi ancora, fino a trovarsi di fianco alla Croix. I due scambiarono una lunga occhiata. La mente di Peter divenne chiara, leggera. La decisione irruppe in un batter di ciglia, un guizzo. Peter uscì allo scoperto. Si mosse con scioltezza in direzione di una roccia che sembrava posta sul campo dalla mano di Dio. Joseph e la Croix lo seguirono. Una volta al riparo, Joseph rivolse a Peter un cenno di approvazione. Il ragazzo si lanciò in avanti. Joseph mandò un segnale ai Caughnawaga che partirono all'assalto. Entrarono nel fianco dello schieramento ribelle. I nemici indietreggiarono, sbandarono, si diedero alla fuga. 2 si fermarono per sparare su Peter. Joseph prese la mira in corsa e ne ferì uno alla spalla. Prima che l'altro capisse da dove era arrivato il colpo, la Croix lo abbatté col calcio del fucile. Peter proseguì la caccia. Ethan Allen aveva già corso 1 miglio, ogni tanto incespicava, ancora pochi passi e cadde, esausto. Peter gli fu sopra, ansimando, puntò il fucile. «Siete sconfitto, arrendetevi!» Con voce rotta dalla fatica, Allen rispose «I miei uomini non consegneranno le armi senza la garanzia di un trattamento leale. Esigo la vostra parola!» Peter, confuso, si guardò alle spalle. Zio Joseph e il Gran Diavolo si avvicinavano con calma. «Ordinate ai selvaggi di starmi lontano!» disse Allen. «Siete mio prigioniero, avete la mia parola!» rispose Peter. Allen consegnò la sciabola. Peter la levò in alto, si voltò verso i guerrieri e lanciò il grido di guerra del clan del lupo.